Che ci sono in giro anche qui in biblioteca queste locandine con tutti gli eventi collaterali legati appunto all'iniziativa Gascia Blum e inoltre abbiamo preparato anche delle vetrine con alcuni suggerimenti di lettura ma anche dei libri di carattere storico che cambieremo. Queste sono delle bibliografie che lasciamo a vostra disposizione. E quindi passo lentamente ad introdurre la serata. Abbiamo con noi il professor Marco Pugliese che da anni ci aiuta nell'incontro con il pubblico, tra autore e pubblico, una missione che questa biblioteca porta avanti veramente sin dall'inizio, ormai insomma ci avviciniamo quasi a 20 anni dalla nascita e dall'attività di questa biblioteca e come sapete insomma settimanalmente organizziamo degli incontri. Marco Pugliese ogni anno ci offre delle serate stuzzicanti, anche già dal titolo devo dire sa cogliere l'occasione per incuriosire il pubblico. Sono tutte iniziative legate poi a dei libri, quindi la biblioteca vuole poi promuovere attraverso la professionalità dei relatori e delle relatrici quello di seminare insomma anche la curiosità nel pubblico per poi approfondire eventuali tematiche leggendo i libri che vengono messi a disposizione. Il titolo di questa sera appunto è La Grande Bolzano, progetto imperiale mancato. Avremo anche un apparato iconografico che accompagnerà la relazione del nostro professore che ringrazio ancora. Grazie perché devo dire si mette sempre a disposizione della biblioteca e del pubblico con grande diciamo entusiasmo e professionalità. Segnalo in questa occasione anche un appuntamento che ci sarà giovedì 3 ottobre ed è la presentazione di un memoriale di un cittadino di Bolzano, si chiama Sergio Franzoso, ha svolto un'attività commerciale, adesso è in pensione, ma ha raccolto i ricordi della sua infanzia durante la guerra. Sarà con noi, quindi non è un romanzo, non è un'opera di narrativa, ma sono dei ricordi di una persona in forma scritta che verranno animati però da un'attrice professionista che è Maria Pia Zanetti. Una serata diversa, sempre però entrando nell'intimità e nella visione di un ragazzino di quello che è stato il periodo difficile della Seconda Guerra Mondiale qui a Bolzano e in anche altri posti dell'Alto Adige dove poi molti sono stati costretti a sfollare per motivi di sicurezza o anche di sopravvivenza alimentare, diciamo, come purtroppo è stato. Marco, comunque tutto legato, come vedi c'è tutto un filo che ci unisce, vi ringrazio di essere numerosi e soprattutto ecco vi ricordo che la biblioteca è aperta tutti i giorni, quindi chi ha piacere di tornare a trovarci e di leggere i nostri libri siamo chiaramente a disposizione anche con le nostre consulenze e vi ricordo questo materiale che trovate in giro per la biblioteca. Marco, buona serata e grazie. Ancora del tuo grazie sostegno. Grazie a voi. Arrivederci. Allora, intanto vi risaluto, buonasera a tutti. Io in questa occasione vi farò sperimentare, spero, in maniera positiva, un nuovo modo di raccontare la storia che è in corso di studio da vari anni e che un'università addirittura in Italia ha deciso di strutturare in corso di master post laurea, quindi è un sistema un po' nuovo, è una divulgazione, che poi in realtà è un sistema vecchio ma che viene riutilizzato, è una divulgazione della storia non tecnica, quindi io non farò ragionamenti basati tutti su pezzi, numeri, date, segmenti particolari, ma cercherò di fare un discorso di trade union tra tecnologie, quindi non utilizzerò del materiale perché avrei potuto tranquillamente proporre delle sorte di diapositive o di foto così e poi le avrei potute descrivere, e partirò da un sito e quindi da una persona che si occupa di storia in maniera diversa magari rispetto a me, spesso tengo dei corsi di formazione anche per i docenti, quindi devo stare un po' più sul tecnico, ma che si occupa di storia divulgativa perché scrive per i giornali, quindi anche un collega, anch'io sono giornalista, quindi insomma siamo colleghi su questo, che è Ettore Frangipane. Quindi io prenderò spunto dalle foto del suo sito e io vi racconterò alcuni aneddoti basandomi e partendo dalle fotografie del suo sito, che così voi potrete poi andare a recuperare e a ristudiare, a riguardare. E siccome lui ha fatto una raccolta molto imponente anche con l'aiuto di questa biblioteca, e sono le foto che si trovano anche nei libri, è abbastanza assurdo arrivare qui con dell'altro materiale. Secondo me nel mondo di oggi dobbiamo fare rete e avere tutti in testa di collaborare tra colleghi che lavorano per la cultura, e quindi io appunto mi baserò sul suo sito per questo motivo. Lui scrive anche per il giornale Alto Adige, che è il quotidiano italiano più letto, e scrive queste rubriche di storia molto interessanti settimanalmente. Quindi io ho apprezzato e ho letto spesso i suoi scritti, e devo dire che ci sono degli spunti interessanti. Ovviamente la mia, chiamiamola, relazione su questo periodo storico lunghissimo, che parte dall'epoca antica, è stata già tradotta in un libro, che però non è un libro di uno storico, perché ovviamente chi fa bene di storia di solito non ha studiato storia, ma è un ingegnere, che è Carlo Trentini, che ha utilizzato la storia di Bolzano in maniera veramente minuziosa, seria, ma non troppo pesante. Cioè, questo è un libro, e io all'interno poi ho messo dei miei articoli, e poi se volete vi posso donare cartacei, dove anch'io ho raccontato pezzi di storia bolzanina in un modo un pochino diverso, un po' come raccontavo ai miei alunni magari dei cicli inferiori delle scuole statali, quindi in modo un po' accattivante, con degli aneddoti, alcune volte premettendo che ci fossero dei pezzi di sentito dire e non esattamente dei pezzi scritti da uno storico. Quindi questo libro è interessante perché non è forse uno dei pochi libri che abbiamo in Alto Adige che non esprime giudizi di carattere politico su nulla. Cioè, lui proprio parte dalle tavole, parte da un discorso molto interessante sulla Torre Druso, non ne fa una questione di chi è arrivato prima o dopo, ne fa semplicemente una questione storica. Quindi nel libro trovate un personaggio anche come Druso, che fu strumentalizzato sicuramente dal regime fascista, però la sua strumentalizzazione chiara, perché è ovvio che Druso non sia passato per via Druso, la conoscete, questo mi pare la palissiana, però Druso è comunque un personaggio che storicamente è stato a Bolzano, cioè perlomeno nella conca di Bolzano, e che storicamente ha creato il primo insediamento di un certo tipo nella conca di Bolzano. Quindi è un personaggio che va comunque citato, e si parte più o meno da lì per iniziare a raccontare la storia della nostra città. Perché ho messo nel titolo imperiale? Perché paradossalmente, sia durante l'impero romano, sia durante l'impero asburgico, sia durante l'impero fascista, abbiamo avuto a Bolzano una sorta di percorso unitario anche dell'architettura. Adesso, tralasciando lì il periodo romano, che ovviamente è molto lontano, però il periodo asburgico, il periodo fascista, paradossalmente hanno avuto molti punti in comune nello sviluppo della città, e molte anche polemiche in comune. Cioè, mi spiego, il campione di Bolzanino al tempo austro-ungarico fu Julius Peratoner, cioè il borgomastro di Bolzano, che durò tantissimi anni il suo mandato, era stato regolarmente votato, però continuò per vari mandati, e riuscì a prese la città di Bolzano, che era piccolina e quasi insignificante, e stretta tra Trento, che comunque era una città importante perché aveva il discorso del clero, e Innsbruck, che aveva una dieta molto importante e che era collegata con Vienna, quindi se il Kaiser non alzava il telefono ma usava il telegrafo, ma se il Kaiser voleva qualcosa andava prima a Innsbruck e poi nella periferia dell'impero. Ecco, Peratoner ebbe il merito di spostare questa centralità di Innsbruck un po' verso Bolzano. E come fece? Lui puntò su una cosa molto semplice: la modernità. Quindi portò a Bolzano tutte quelle tecnologie che lanciarono la nostra città nel periodo di rivoluzione vera e propria, la possiamo chiamare tecnologica, lì si parla di rivoluzione industriale, però nella fattispecie è più tecnologica, perché un tram per l'inizio del Novecento era un qualcosa di estremamente tecnologico. Quindi Peratoner fa questo e si ferma a metà però dell'opera, perché poi, come tutti sapete, c'è stata la Prima Guerra Mondiale che ha bloccato un po' tutto. Poi è arrivata l'Italia, perché aveva vinto quella guerra, e dopo qualche anno arrivò il regime fascista. Chiaramente Bolzano si ritrova di nuovo al centro di una politica molto importante, perché Bolzano si trovava di nuovo tra Trento e Innsbruck, che era ormai tagliata fuori, faceva parte di un altro stato, però la nostra provincia ebbe gran importanza per le politiche del regime, cioè divenne una specie di laboratorio per svariate cose. La marcia su Bolzano, molti dimenticano che la marcia su Bolzano fu una prova generale riguardo alla marcia su Roma. Quindi tutti quei fatti che avvennero nel 1922 ebbero una prima uscita qui a Bolzano, quindi fu una città che già a quel tempo aveva qualcosa di impugnato, venne proprio Starace a fare la marcia, quindi quello che poi nel futuro ricorderete fu il segretario del partito fascista, che divenne famoso per questi fogli di ordinanza un po' particolare che diede a quel moto carnevalesco a tutto il regime fascista, quindi dobbiamo a lui quella presa in giro anche che arrivò poi lo stesso Mussolini, che infatti lo fece destituire, ma ormai la guerra era iniziata, il pasticcio era fatto. Quindi Bolzano fu già lì il laboratorio. Poi chiaramente Mussolini in realtà è un po' tirato per i capelli dire che diede retta a Tolomei, che sapete Tolomei era un trentino che da tempo immane aveva cercato di dimostrare che l'Alto Adige facesse parte dell'Italia, eccetera, eccetera, con degli studi, e che è una figura che in Alto Adige spesso viene messa in un angolo e non studiata, viene bollata, come viene bollato il periodo del terrorismo sul tirolese, senza uno studio approfondito, o meglio, senza qualcuno che dica esattamente dove finisce la politica e dove inizia la storia. Io ho fatto una conferenza sul BAS, quindi sul terrorismo, insieme anche a persone di madrelingua tedesca, e si è detto chiaro e tondo quello che successe, però si disse anche che il primo BAS, cioè quello di Klotz, per intenderci, fu un movimento che puntava a una libertà patriottica e non a andare a ammazzare le persone. Se si iniziano a spiegare le cose, poi è chiaro che purtroppo le bombe le hanno messe, però se si parte con questa premessa, anche se ci sono persone tedesche e italiane, si sentono tutti parte di un qualcosa che hanno vissuto, cioè chi più chi meno, in maniera anche negativa, perché la paura ce l'avevano anche, penso, le persone di madrelingua tedesca, non solo gli italiani. E allora da questo sentimento comune si può costruire una storia condivisa. Se invece partiamo dicendo quelli sono terroristi, è meglio che li lasciamo perdere, non ne parliamo, si viene a creare quel mito, poi le persone vanno su internet a leggere cose anche sbagliate e si mettono in testa questioni che non sono neanche messe, idem dalla parte italiana. Quindi se noi diciamo Tolomei è meglio non studiarlo, c'è un libro bello di Ferrandi, è Tolomei l'uomo che inventò l'Alto Adige, che vi consiglio di leggere, perché in quel libro ci sono delle piccole verità che in provincia di Bolzano spesso non vengono raccontate, quindi si possono capire dei comportamenti. Però tornando a Mussolini ebbe un'idea. Lui doveva in pratica fare in modo che la provincia di Bolzano diventasse una provincia moderna con la superiorità italiana proprio a livello di numeri di popolazione, e puntò sulla città più grossa dell'Alto Adige, cioè Bolzano, che era già stata ricostruita parzialmente da Peratoner, e lanciò una politica di tipo industriale, cioè creò la zona industriale più o meno, adesso era un po' diversa, comunque la creò in quel periodo lì, e utilizzò il podestà che oggi chiameremo manager, che fu Mastro Mattei, che in realtà non era ecco, anche su quello sarebbe da fare uno studio approfondito, perché Mastro Mattei non era il classico fascista che andava in giro col manganello, eccetera. Era una persona che aveva agganci strettissimi con le grosse aziende italiane, era una sorta di manager, e lui riuscì a convincere i grandi industriali a costruire le fabbriche a Bolzano, perché chiaramente Falk e compagnia cantante non è che avessero gran voglia di venire in una regione sperduta d'Italia dove l'industria l'impero austro-ungarico non aveva mai puntato sull'industria in Italia, cioè nella parte italiana dell'impero, quindi non era strategicamente importante l'Alto Adige per l'impero austro-ungarico da quel punto di vista. Divenne importantissimo invece per quanto riguardava il fascismo, che puntò anche sul turismo, cioè il turismo invernale fu di fatto creato in quel periodo lì in maniera popolar massiccia, che ci andavano persone ben abbastanza abbienti, però fu data la via che dopo negli anni 60 e 70 andò a sviluppare quel turismo che adesso conoscete e che è conosciuto in tutto il mondo, cioè la Val Gardena nacque turisticamente in realtà negli anni 30, Bolzano invece nacque nel periodo proprio di Peratone, Per Attoner puntò tantissimo sul turismo, infatti Bolzano, se voi prendete le foto antiche, era praticamente un albergo dietro l'altro. Anche dove c'è il corpo d'armata c'erano alberghi, poi furono demoliti, qui nella città storica c'è pieno di alberghi demoliti davanti alla stazione, l'hotel Bristol, eccetera. Quindi si puntò su un'industria turistica non semplicissima a quel tempo, perché le persone molto ricche utilizzavano gli alberghi, quindi dovevi farli per forza extra lusso, non c'era la via di mezzo, non c'era low cost. Lì dovevi fare, quindi gli imprenditori del tempo dovevano metterci un sacco di soldi, e per fargli spostare le attività ci volevano grossi benefit da parte di comuni, eccetera. Quindi per Attoner fece quel tipo di lavoro. Poi il fascismo concluse in parte andando a creare e rimodernare le strade, ad esempio, puntò molto sulle ferrovie, rimodernò la regione e soprattutto costruì. A Bolzano costruì tutta la parte dopo il ponte Talgra, quindi tutta quella parte lì venne creata da zero, e soprattutto avrebbe dovuto diventare, e questo è uno dei temi della conferenza di oggi, il nuovo centro della città di Bolzano, perché è chiaro che poi in un regime come quello fascista non poteva rimanere la piazza più importante di fatto creata da un nazionalista austriaco, perché era un nazionalista per Attoner, non è che fosse socialista come Battisti o altri, era un nazionalista che puntava con il pangermanesimo a dire che questa zona fosse germanica, quindi austriaca, quindi tedesca. Quindi il Walter, per esempio, è un esempio di questo pangermanesimo. Walter, che lo conoscete tutti, è un poeta barra menestrello che fu messo in piazza Walter con lo sguardo politicamente rivolto verso Trento, e i cittadini di Trento però risposero con Dante pagando di tasca loro, eh? Quindi non è come adesso che vai su Facebook e fai polemiche e poi te ne torni a casa. A quel tempo i cittadini di Trento, i redentisti, per dar fastidio a Toner fecero il giochetto contrario: abbiamo almeno due belle statue, possiamo raccontare. È interessante perché in un libro avevo letto questa frase: i due poeti inconsapevolmente si guardavano negli occhi, uno da nord verso sud e viceversa, e venne usata la letteratura per, insomma, farsi la guerra etnica, che non è molto bello, nel senso che la cultura dovrebbe unire, invece quando ci sono di mezzo regimi, imperi, eccetera, si utilizza la cultura per dividere. Sarebbe il caso che nel 2019 si spiegasse la totale, per esempio a Bolzano, io a molti quando chiedo: ma secondo voi qual è il monumento più fascista della città? Sbagliano tutti. Adesso rivolgo anche a voi la stessa: qual è il monumento più fascista che abbiamo a Bolzano? Piazza Tribunale. No. La Vittoria. Neanche. Il più fascista di tutti non è né il Mussolini a cavallo, e nemmeno, cioè, dove c'è dentro l'idea di fascismo non è né il monumento alla Vittoria e neanche il Mussolini a cavallo, che è semplicemente un Mussolini tardo che fa solo così con la mano, ma non ha dentro l'idea di fascismo, perché anche quel credere, obbedire e combattere è molto postumo. In realtà il vero fascismo sansepolcrista c'è dentro in un monumento che in realtà è un edificio monumento in cui passate, che è stato restaurato e che adesso ha dentro un istituto, vi do questa, l'Eura, che è uno dei monumenti più fascisti, perché ha una torre, quella torre che c'è su Via Druso, che non ha nessun senso architettonico se non essere contrapposta al campanile delle chiese, perché Mussolini era famoso in Svizzera quando era amico di Lenin, e aveva insieme a lui un amante che era Margherita Sarfatti, e la Balabanov le ha conosciute insieme a Lenin, e soprattutto con la Balabanov lei si metteva in prima fila ed era estasiata, perché lui diceva che avrebbe voluto costruire, siccome era molto laico in quel tempo, una casa del socialismo con tanto di campanile contrapposta a una casa del cattolicesimo, che è la chiesa. Quindi quando lui divenne dittatore fece costruire le case del fascio, o viceversa, in quel caso era la GIL, Gioventù Italiana del Littorio, e lì in quel campanile c'è tutta tutto il fascismo proprio dell'inizio e del 1920, dei fasci di combattimento. Quindi, se vogliamo essere logici, sarebbe stato quasi più da spiegare quel torrione che tutto l'arco di Piacentini, perché l'arco di Piacentini è monumentale. non ha dentro i significati nascosti, è monumentale come lo vedete, è un arco di trionfo basato, cioè che ricorda un po' l'arco di trionfo romano, quello che c'è vicino al Colosseo per esempio, dove sopra c'è scritto l'impresa che si è fatta e dove c'è una vittoria alata che scaglia una freccia nella direzione dell'Austria, quindi vedete lì c'è una simbologia politica di nuovo ripresa con una frase non tanto bella, perché appunto si dice che qui si è portata la civiltà, però ripeto, anche quella frase va decontestualizzata, addirittura bisognerebbe dire che molti latinisti, nonostante fossero all'interno del regime fascista, avevano detto a Mussolini di non metterla perché rischiava di inimicarsi la popolazione locale. Lo stesso Piacentini litigò spesso con i gerarchi più vicini a Mussolini, perché Mussolini avrebbe voluto anche demolire i portici, quindi fu Piacentini in quel caso che disse stiamo calmi, perché se pestiamo troppo sull'acceleratore viene fuori una rivolta. Quindi l'idea però di Piacentini fu quella di creare una Bolzano enorme che arrivasse a più di 200.000 abitanti, quindi Bolzano avrebbe dovuto estendersi fino ad Appiano, inglobando quella che oggi voi conoscete, l'Aives, inglobando tutta quella zona. C'erano addirittura progetti di funivie, seggiovie, eccetera, e avrebbe dovuto avere la nuova stazione a Ponte Roma, dove adesso c'è proprio il ponte. Non pensate all'autostrada, perché sennò vi ingannate, lì avrebbe dovuto esserci la nuova stazione con il ponte un po' più grande, e il nuovo centro storico, quindi centro politico, sarebbe stato Piazza della Vittoria, che si chiamava Foro della Vittoria, per essere precisi. E se vi ricordate, nella piazza originale c'erano tutti quei segni per terra fatti col porfido, quel tipo di segnaletica serviva per fare le parate, me l'ha detto un architetto di Firenze, perché molti hanno detto no, ornamentale, no, erano. Se voi vedete qualche video della luce quando facevano tutte le parate ginniche, o disegnavano per terra dei cerchi eccetera per mettersi in posizione, oppure nelle piazze storiche avevano creato questi percorsi di modo che le persone potessero muoversi in sintonia col battito eccetera, e andare a ritmo. Quindi, come vedete, anche Bolzano ebbe una forte simbologia fascista all'interno delle proprie costruzioni, paradossalmente in quella che tutti hanno restaurato e che è rimasta lì viva e vegeta, e hanno cercato di depotenziare quella che in realtà aveva un significato che era più che altro di vittoria politica barra di guerra. Il monumento nacque in onore di Battisti, fu poi la vedova Battisti che disse di non volerlo attribuito al marito, perché non voleva che il marito fosse associato al fascismo, e probabilmente ebbe ragione, ma non so se qui in sala lo sapete, Mussolini però voleva dedicare, non solo perché Battisti aveva una figura politica, ma perché Mussolini era socialista, fu socialista, e nel suo periodo socialista andò a lavorare per Battisti, quando Mussolini era spiantato e aveva la moglie già incinta eccetera eccetera e non aveva lavoro, lo avevano mandato via da una scuola, lui era maestro elementare, l'avevano cacciato da una scuola perché si era azzuffato con un altro insegnante, era uno spiantato, e alla fine mandò un sacco di lettere a Battisti. Lui era Mussolini era un bravo giornalista dal punto di vista stilistico, e Battisti lo fece collaborare col suo giornale, quindi Mussolini si trasferì a Trento e lavorò per il giornale di Battisti. Fu poi espulso dall'impero austro-ungarico, non in realtà per l'irredentismo, ma perché lui scriveva per Battisti non solamente articoli politici, ma novelle che avevano come protagonisti alti prelati, quindi persone di chiesa che avevano delle storie con varie donne. Siccome questi si resero conto che queste storie stavano girando un po' troppo, bollarono chiaramente il giornale come eversivo e bla bla, e minacciando la chiusura dei fondi, Battisti gli disse: guarda, sei bravo a scrivere, ma vai via, perché sennò io non so più come mangiare. E quindi lui ebbe questo piccolo screzio, perché chiaramente si offese con Battisti, però rimase sempre molto leale a livello di amicizia con Cesare Battisti, come rimase leale con Nenni. Se voi sapete che quando a Nenni i giornalisti andavano a chiedere cosa pensa di Mussolini, si girava dall'altra. Quando dopo la seconda guerra mondiale a Nenni veniva fatta questa domanda, Nenni non volle mai dare nessun tipo di commento, perché è chiaro, se si guarda la storia di Nenni e Mussolini due persone che si sdraiarono sui binari del treno nel 1912 per non far partire i treni carichi di militari italiani che andavano a conquistare la Libia, vennero messi in galera insieme, e in galera andava a trovarli la moglie di Mussolini con la prima figlia, quindi Edda, che stava sulle gambe dello zio Nenni. Quindi, per farvi capire il legame stretto, Nenni fondò il fascio di Bologna, quindi Nenni all'inizio era fascista, e poi si dissociò. Però Mussolini non gli tolse un capello, non ebbe mai il coraggio, lo fece andare al confino, ma Nenni aveva un trattamento che oggi diremmo speciale, nel senso che non ebbe mai quegli stenti che ebbe Gramsci, per esempio, che fu abbandonato anche dal Partito Comunista Sovietico, Gramsci, ma che fu completamente abbandonato anche dai suoi compagni. Invece Nenni fu tenuto dai socialisti comunque in auge, e Mussolini non toccò mai né lui né la sua famiglia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, chiaramente a Mussolini fece una fine ben diversa, e qualcuno nei socialisti imputò a Nenni quella fine, disse: sì, è vero, politicamente, ma tu non hai mosso un dito per salvare quello che era stato uno dei tuoi migliori amici. E Nenni non volle mai dare una spiegazione a nessuno, e si tenne questa sorta di dolore per se stesso. Erano uomini d'altri tempi e sicuramente avevano una cavalleria mentale diversa dai politici che conosciamo oggi, questo è poco ma sicuro. Ecco, detto questo, io adesso vi faccio vedere il sito del collega Frangipane, che è molto interessante perché lui ha fatto un lavoro che è molto divulgativo. Intanto, se volete, io poi vi do e vi faccio vedere una cosa interessante che avevo trovato io invece. Praticamente io avevo trovato per caso, una persona mi aveva raccontato che sulla città di Bolzano erano stati lanciati per errore, per un guasto tecnico, i famosi volantini che D'Annunzio fece sganciare sulla città di Vienna. Ci fu questo errore ad Oltresarco, successe, a quel tempo a Oltresarco c'erano solo delle caserme, non c'era granché, e questi volantini, un amico del mio prozio aveva uno di questi volantini, quindi probabilmente quel fatto avvenne, però eravamo negli anni 30 e nessuno si prese la briga di andare a sviscerare, il signore in causa è morto, che io sono nato 40 anni dopo, quindi non ci ho mai parlato. Il mio prozio mi aveva però raccontato che questo signore si vantava perché aveva questo volantino, dicendo che lui era nato a Bolzano ed era anche non credo neanche che fosse completamente che fosse italiano, penso che fosse più di madrelingua tedesca. Lui si vantava perché aveva recuperato uno di questi volantini, che poi scoprì fossero i famosi volantini dell'impresa di Vienna, solo che purtroppo non ci sono. Ecco, questo è uno degli esempi che facevo ai miei alunni, e dicevo, in questo caso bisogna sottolineare che è un aneddoto che te l'ha raccontato una persona che magari è anche attendibile, ma se tu non hai il volantino in mano devi continuamente dire può essere, pare. È interessante però per avvicinarsi alla storia, perché magari da quel volantino vai a vedere l'impresa su Vienna, vai a vedere chi è D'Annunzio e ti studi qualcosetta di letteratura. Ecco, diciamo che l'avevo scritto, però io avevo ricostruito in base ad alcune testimonianze che avevo trovato questo articoletto per il Qui Bolzano, per il gruppo Atesia, che devo dire, ad esempio, io ho scritto molti articoli storici anche pesanti, perché ho scritto sulla marcia su Bolzano, e vi garantisco che da un punto di vista di madrelingua tedesca non è facile parlare di quegli argomenti, però il gruppo Atesia mi ha sempre pubblicato tutto, perché ha apprezzato io ne scrivevo uno diciamo a favore del periodo, cioè non a favore, ma che descrivesse il periodo austro-ungarico, e uno che descrivesse il periodo fascista, facevo uno e uno, di modo che non ci fossero problemi. Infatti qui ho messo la Grande Guerra e avevo messo la città sulle rotaie. Questo l'avevo scritto che ancora a Bolzano non si parlava di tram, adesso sapete che c'è il referendum sul tram. Ecco, io avevo scritto questo articolo per ricordare che a Bolzano ci fosse stato il tram, quindi non ha nessuna valenza politica. Poi questo, se volete, ve lo posso distribuire, questi li trovate online. Io sto anche ultimando un testo dove ho raccolto tutti i miei articoli divisi e anche delle foto storiche, e che però sarà un testo non di storia vera e propria, ma si chiamerà Comunicare la storia, quindi sarà un testo che va bene per i docenti come va bene per voi che magari volete leggervi un libro leggero e che non è troppo pesante a livello tecnico, perché secondo me se una persona piace la storia e inizia a leggere Renzo De Felice, dopo pochi minuti si lancia dalla prima finestra e la fa finita, perché è troppo pesante, è un tecnicismo continuo. Quindi io vi consiglio Spinoza, Bertoldi e Petacco come autori italiani che scrivono in maniera decente, e soprattutto Montanelli, che ha scritto con Gervaso la storia d'Italia ed è molto neutro nel riportare anche la vicenda che lo riguarda. Quindi Montanelli lì fa finta quasi di non essere mai stato con Mussolini, perché descrive proprio anche tutti gli errori, cioè non assolve mai, non dice mai però è andata così, cioè lui autodenuncia anche delle deficienze dell'esercito, delle camicie nere, dice che le camicie nere in Albania praticamente non facevano nulla, me l'aveva confermato mio nonno, stavano lì solo a brindare, a fare, e poi era il Regio Esercito che doveva andare a fare le battaglie, infatti gli alpini ce l'avevano a morte con Mussolini per quel motivo. Stessa cosa qui a Bolzano con le grandi manovre, vennero usate anche delle camicie nere, facevano ridere i polli perché questi erano degli scapestrati, e lo stesso Montanelli dice: io mi divertivo perché stavano le camicie nere, non facevo niente, sono andato in Etiopia, praticamente ho sparato due colpi, addirittura Farinacci, famoso per avere pescato in un lago etiope con le bombe a mano e perse una mano, e poi scrisse però un libro dove disse che quella mano l'aveva persa perché aveva fatto un'azione valorosa. Quindi siamo proprio in piena cialtroneria totale. E ecco, questi poi ve li lascio. Poi in un altro articolo che vi lascerò, poi se volete prenderli, io ve li posso anche mandare via email. Ho un mio sito, quindi in caso se voi mi mandate una mail io vi mando il mio materiale senza problemi, anche le foto che ho recuperato dagli archivi, eccetera. E questa invece è su Druso, quindi avete qui, diciamo, un po' tutta la storia, no? Che va con tre articoli, avete tre periodi storici diversi. È importante in storia non fossilizzarsi troppo su, cioè se non siete degli storici o non siete dei appassionati di un periodo, io vi dico sempre di leggerla tutta e soprattutto di fare questi agganci, cioè si parla di Mussolini e di Druso piuttosto che di non andare mai a parlare solo di un periodo di Medioevo, perché sennò diventa una questione abbastanza noiosa e soprattutto troppo tecnica, piena di date. E se oggi vi avessi parlato del 15 avanti Cristo, dove Druso è arrivato qui, ma dopo nel 30 c'è stato il Limes, avremmo già qualcuno che si alza, perché chiaramente è molto pesante, non siamo all'università a una lezione magistrale, siamo a una conferenza divulgativa. Quindi su questo c'è, cioè, appunto, adesso fanno i master, fanno agli insegnanti i master per insegnare ad insegnare, invece quando uno dovrebbe avere già nell'indole di dire: chi ho davanti mi devo adeguare, devo usare anche un linguaggio diverso se ho davanti dei professori piuttosto che delle persone comuni, perché potrebbero, cioè, ricordatevi che la persona forbita che parla troppo forbito è ignorante perché nessuno la capisce, rimane ignorante lui perché non sa con che pubblico parla. La persona invece veramente dotata di un minimo di cervello, non di lauree, di un minimo di cervello, quando ha davanti una platea capisce se le parole che sta usando sono consone o no al contesto. Se si inizia a parlare con latinismi, troppi latinismi non vanno, o lui si spiega. Il mio professore di latino diceva: se fate un latinismo spiegatelo, perché se qualcuno non ha mai studiato latino perché ha fatto liti, dice: sì, bravo, e che vuol dire? Quindi voglio dire, stiamo in un periodo un po' particolare, perché vedo anche su questi social molte volte colleghi, anche insegnanti, che presentano libri e alla terza riga ti butti da una finestra, perché dici: ma questo cos'è? A chi vuol parlare? A nessuno. E allora ragazzi non lo leggono, i più adulti non lo leggono. Allora io vado su, vediamo, Bolzano scomparsa, quindi se vi appuntate il sito e vediamo, spero che funzioni. Sì, funziona. Ecco, per esempio, questo è un sistema tra virgolette nuovo che anche a scuola si utilizza per fare lezione, e cioè si utilizza un sito da dove si prendono, perché non mi aveva aperto, da dove si prendono informazioni, di modo che i ragazzi, che ormai usano tutti il cellulare eccetera eccetera, abbiano poi la possibilità di andare a ristudiarsi tutto quello che è stato poi detto in classe, ecco, in linea di massima. Su qui non si apre, però vado a chiedere un attimo alla persona che c'è, perché mi avevano detto che era libero. Tarzano scomparsa. Se questo intanto volete passarvelo per farvi solo capire che si aprisse. No, non, ho provato a mettere l'indirizzo ma non va, mi torna, cioè mi salta proprio. Ma oggi hanno lanciato per sbaglio un grosso cavo che alimenta tutta la batteria. Ah, però. Il cellulare lo prende però. Vediamo se da qua me lo fa andare. Ma perché il sito lo apriva, quindi... la biblioteca lo apre senza problemi, però vediamo se si apre. Intanto vi racconto semplicemente perché questo libro secondo me è fondamentale per niente, non va proprio la connessione, non va proprio la connessione qui. Vabbè, vi racconto comunque quello che vi avevo raccontato con delle foto che tanto erano. Alcune erano la riproposizione di questo, quindi non cambia moltissimo da quello che... Allora, vi posso anche far girare il libro, tanto ci possiamo organizzare. Allora, l'autore di questo libro, che è Carlo Trentini, parte da un monumento, chiamiamolo monumento, ma in realtà non è un vero monumento, parte dalla Torre Druso. Allora, la Torre Druso, ovviamente lui spiega, non c'entra praticamente nulla con ciò che è riferito a Druso, cioè è un ritrovamento archeologico postumo, quello romano. C'è stato un ritrovamento di qualcosa di romano sotto alla Torre Druso, ma non è assolutamente riferito al periodo di conquista della Costanza. Quindi questa torre poi è stata ricostruita più volte in epoca medievale ed è stata poi utilizzata come torre, come semplice torre di vedetta. Quindi il nome Druso non deriva neanche dal periodo fascista, quindi non è neanche stato strumentalizzato. Non si capisce bene perché, non si capiva bene perché proprio in quella zona ci fosse questo nome. L'abbiamo però capito 2 anni fa, perché nella zona di Gries e verso la Torre Druso sono state ritrovate dei reperti romani di una certa rilevanza. Cioè a Gries è stata ritrovata una villa romana e soprattutto è stata trovata traccia di un mercato che a occhio, io non sono un archeologo però ne ho visti vari dopo il mercato di Aquileia che lo usi come metodo di paragone, quel mercato era già abbastanza grosso e abbastanza importante perché dipendeva molto dalle monete che venivano trovate. Cioè se vengono trovate delle monete di un certo periodo storico, significa che quel mercato in quel periodo storico era fiorente. Cioè questa, e si fa tutto sempre la contrapposizione con Aquileia, che era il World Trade Center di Roma antica, cioè lì arrivava tutta la merce della Via della Seta. Via della Seta che voi avete sentito parlare in televisione, la Cina, qui dico una cosa moderna, cioè dei tempi d'oggi, la Cina di oggi ha interesse culturale al 90% a creare una Via della Seta con l'Italia, non ha un interesse in realtà economico, perché la Cina di oggi, che nel gergo geopolitico si chiama grande potenza a metà, ha ancora nella propria testa il concetto di potenza culturale che gli Stati Uniti non hanno. Cioè gli Stati Uniti vanno a contrattare con Qatar, vanno a contrattare con il Senegal, se c'è da contrattare, non gliene frega niente, loro vogliono fare l'affare, sono dei mercanti moderni. La Cina no, La Cina in Europa vorrebbe che l'interlocutore principale per motivi culturali fosse Roma. Perché, perché in Cina si ricollegano ancora alla Via della Seta dell'epoca romana. Durante l'epoca romana la Via della Seta fu strutturata, aveva delle tappe intermedie. Io pensavo in primavera di fare due cicli di due conferenze, perché una non basta per spiegare cos'è la Via della Seta, e aveva in mezzo tutte queste città da Mille e una Notte che spesso vedete riprodotte nei film. In realtà spesso si confondono col periodo arabo, ma spesso arrivano dal periodo invece della prima via della seta. Ah, ciao. Se riesci, grazie. Quindi anche su questo abbiamo un approccio culturale noi europei che è molto strano, perché questo aspetto della Cina non lo spiega mai nessuno in televisione. Vi parlano sempre solo di questioni economiche, dicendo: guarda che se la Cina blocca la vendita di magliette tu perdi 600.000 potenziali clienti, perché una città cinese è 500.000-600.000 abitanti, quindi se tu vendi già le magliette in una città sola sei a posto. In realtà non è solo quello. Cioè la Cina e nel partito, perché adesso il partito cinese è il maggiore azionista di tutte le aziende di Stato, e questo è cambiato dall'anno scorso e tutti lo sottovalutano, però la Cina ha una grandissima forza culturale quando fa le trattative anche economiche, che forse magari in Italia dovremmo un attimo stare a vedere queste cose, perché in Cina sono molto orgogliosi di aver avuto contatti tra l'impero celeste cinese e l'impero romano. Cioè sono cose che loro giudicano importanti. Ovviamente gli americani ridono di queste cose, perché gli americani sono una popolazione moderna e loro credo nei secoli questo forte interesse cinese nel confronto della cultura romana, che quindi ma praticamente dal terzo, secondo e terzo secolo dopo Cristo fu il culmine dello scambio. Chiaramente l'impero cinese ebbe scambi volentieri con Roma, perché aveva capito che tanto Roma non aveva mire espansionistiche nei riguardi dell'estremissimo Oriente, viceversa Roma aveva tranquillamente capito. C'erano degli ambasciatori cinesi che arrivavano a Roma e ci sono stati ambasciatori romani andati in Cina che descrissero la civiltà cinese come avanzata, e la descrissero come estremo, e non come estremo lembo di civiltà, però, perché evidentemente qualcuno gli aveva raccontato che c'erano anche i giapponesi che ancora vivevano un periodo diverso, però che erano sicuramente non ancora civilizzati come la Cina, che era un polo. Poi i romani avevano basi commerciali anche in India, una grossa parte, nello Sri Lanka per esempio c'era una base romana. Quindi noi abbiamo una tendenza a pensare alla Roma solamente nel Mediterraneo, ma aveva una forte influenza commerciale anche per quanto riguarda l'Asia e l'Estrema Asia. I prodotti della Via della Seta arriveranno anche a Bolzano, però, perché in quei ritrovamenti storici ci sono palesemente delle monete che indicano la parte molto orientale dell'impero, perché sapete ogni provincia romana poteva battere anche una moneta propria legata alla banca centrale che era quella di Roma, e queste monete che hanno trovato anche qui, un paio arrivavano dalla provincia di Babilonia, quindi vuol dire che era la massima espansione dell'impero romano, quando ancora i parti non si erano fatti, cioè quel periodo in cui i romani erano riusciti a riconquistare la parte dei parti, scusate il gioco di parole. Quindi per farvi capire che c'è un mondo globalizzato oggi, ma c'era un mondo globalizzato e non poco anche all'epoca romana. Del resto era abbastanza semplice, perché c'era un polo enorme in Europa e un polo enorme in Asia. Quindi nel periodo invece ci fa un po' riflettere invece che in questo periodo storico di torri, torrioni eccetera eccetera, viviamo invece un periodo storico chiuso, perché il Medioevo è vero che non è quel periodo di maghi, nani e gnomi che viene descritto spesso come periodo buio, però è un periodo che sicuramente a livello di esplorazioni, scienza eccetera era rimasto un pochino fermo, anche se poi ci sono delle testimonianze enormi culturali, perché per esempio Sant'Agostino, non è che Sant'Agostino non conoscesse le scienze eccetera, solo che riconduceva tutto alla divinità, però non è che fosse un ignorante. E adesso si tende anche a bollare chi crede in Dio ignorante, ma non è così. Cioè Sant'Agostino faceva anche degli studi scientifici, è chiaro che lui poi ti diceva secondo me è Dio che tira le fila, però lo dicono anche scienziati moderni, quindi insomma va. Ecco, Bolzano nacque poi come città vescovile, ebbe il punto in cui stapparono la bottiglia e dissero siamo una città vera e propria, perché quando si mette di mezzo Santa Romana Chiesa, chiaramente le agevolazioni, specialmente in questo territorio, in quel periodo, erano abbastanza buone, nel senso che la Chiesa di Roma aveva tutto l'interesse, e molti anche questo dimenticano di Bolzano. Perché Bolzano e Trento sono così importanti? È vero che a Trento ci hanno fatto il concilio, eccetera, però era importante Bolzano e Trento perché era verso l'Austria, era importante tenere una base cattolica, perché in questi periodi storici stiamo vivendo la riforma protestante, e guardate che la riforma protestante, poi ricordate il periodo della cattività avignonese, quindi con l'antipapa, il papa, tutto quel periodo, questo periodo che in storia è molto nebuloso, in realtà portò a Roma, alla Chiesa di Roma, grossi problemi di tassazione, perché se tu non potevi più dire al ricco di turno vuoi entrare nella Chiesa e paghi, e questo diceva chi se ne frega perché tanto io sono protestante, sono anglicano, e questo iniziava a diventare un problema. Quindi queste roccaforti cattoliche che sono rappresentate dagli elvetici, per esempio dai principati di quella zona, dai principi, i famosi principi vescovi di Trento, quando si sente questo, o addirittura la stessa parte bolzanina, erano molto cattolici in questa parte perché la Chiesa aveva investito moltissimo a Bressanone, per esempio. Bressanone è un'altra città vescovile, ma Bolzano, per un certo periodo, più che commerciale, divenne vescovile, e siamo quasi nel 1000. Divenne una città vescovile, e questo è un periodo in realtà che viene un attimino offuscato da alcune invasioni, per esempio gli Ungari, che provarono a conquistarsi qui la Conca, che non ci riuscirono, poi arrivarono i Sassoni, eccetera. Quindi fu molto importante anche quel periodo storico, perché di fatto a Bolzano diede delle mura e dei castelli. Per esempio questa era la porta di un castello nella città che conosciamo oggi. Esatto. In realtà questo era un bel castello di difesa, perché da quella parte arrivavano i nemici, quindi la via era più stretta, e per una questione di strategia militare più le vie erano strette e più la cavalleria i cavalieri facevano fatica a entrarci. Siccome a quel tempo spesso le battaglie si combattevano tra cavalieri, le vie delle città venivano fatte strette per creare danno alle cavallerie. Per quello nel Medioevo si tendeva a fare tutto molto stretto. Infatti gli arabi capirono questo giochetto e puntarono sui giannizzeri, che erano, copiando i romani, che erano i figli delle persone conquistate, che venivano strappate alle famiglie e portate dal sultano, che le battezzava tra virgolette come nuovi cittadini e li faceva vivere, nascere e crescere, non solamente il sultano da servire. Stessa cosa che facevano i romani con le popolazioni assoggettate: prendevano tutti i figli maschi e se li portavano a Roma a fargli fare le scuole di guerra, e questa gente praticamente cresceva come padre l'imperatore. Erano tutti, tra virgolette, figli dell'imperatore, tanti entravano nella guardia personale. Infatti il sultano di Costantinopoli, che poi divenne Istanbul, ebbe tanti italiani nella sua corte, e nel suo divano, anzi, perché lì si parlava di divano perché stavano spesso seduti sul divano anche a fare le trattative, e molti italiani e molti veneziani, tanti convertiti e tanti invece che facevano i semplici consulenti, cioè normalissimi, che però stavano perché il sultano era pieno di soldi e quindi ti pagava. Ungheresi, molti ungheresi che costruivano le bombarde famose, e anche a Bolzano abbiamo una testimonianza di questo periodo nella leggenda del castello che trovate sulle passeggiate. Esatto. E lì, perché praticamente sapete che lì si dice che ci sia un fantasma nel castello, eccetera. In realtà questa principessina, chiamiamola principessina, che aspetta questo ragazzo, è perché lui le mentì e le disse: io vado in realtà a fare un viaggio di un certo tipo, sono un pellegrino, ma in realtà lui intendeva vado a fare il crociato. Quindi lei rimase innamorata di questa persona, che poi non tornò più dalle crociate, e si disse si sia poi uccisa e il fantasma sia ancora lì che vaga e aspetta sto povero ragazzo. Quindi quello è il periodo che noi associamo a Ludovico Ariosto e a quella letteratura carina. In provincia a Bolzano, in quel periodo, comunque abbiamo una testimonianza che è quel castello, che è quel tipo anche di architettura. Quindi vedete che i periodi storici nelle città, se andiamo a scavare, ci sono tutti. Poi, molto fondamentale, è la città che prende vita come la conoscete oggi, quindi ci sono i portici, no? Questo è un acquarello, ci sono i portici, la città che prende vita, e qua siamo tra 600 e 700, nel senso che i portici, come li vedete oggi, non erano uguali identici nel... si diceva, no, che ci fossero i portici da una vita a Bolzano, ma non erano come li vedete oggi, erano molto più grezzi, molto più piccoli, eccetera. Quindi questi portici che vedete oggi sono tutti figli di quell'architettura che va dal 400, 500, 600, il palazzo mercantile che fu costruito dalla De Medici, quindi un'architettura che arrivava direttamente dall'Italia, e dal Rinascimento italiano. Quindi nella città di Bolzano, in piena zona austriaca, con tutto il discorso vescovile, eccetera, abbiamo un palazzo che va direttamente nel Rinascimento italiano, che al 99% era un Rinascimento laico, però che aveva tutti gli artisti che venivano praticamente pagati dai papi per fare le opere d'arte che adesso trovate a Roma, eccetera, eccetera. Cioè, è un po' strano anche da capire quel periodo, perché è fortemente laico come politica, la polemica di Dante Alighieri, piuttosto che la polemica, o pensate a scrittori come il Boccaccio, e però abbiamo questi palazzi e questi artisti che alla fine è un Raffaello, Michelangelo, che molto spesso non erano neanche bravissime persone, infatti Michelangelo andava in giro col coltello, Raffaello era uno che faceva risse, solo che la biografia di queste persone ci è stata un po' mitizzata e li abbiamo elevati a santi, ma in realtà erano persone abbastanza, erano maestri artigiani, li chiameremo oggi, molto alla mano, che lavoravano per potenti e potentati, e non fa eccezione neanche Leonardo da Vinci, che di fatto lui fece quello che fece Pitagora, cioè andò a lavorare per un potentato che diceva: tu fammi vedere le tue costruzioni e io ti pago. Erano questi artisti, questi geni sempre in bolletta, che dovevano affidarsi al potente di turno. Anche lui finì in Francia, sì, lo ospitarono, tutta quella storia, però in realtà fondamentalmente perché cercava lavoro, non, è che noi tendiamo a mitizzare, ma dobbiamo poi fare i conti con la storia reale. Tornando invece a Bolzano, per esempio, un'altra città gotica, che infatti questo capitolo è molto interessante, la città gotica del periodo gotico, che quindi è che circa del XIII secolo, XIV secolo, aveva, come vedete, questo Elisarco, era assai piccolina. Il problema è che da questo periodo storico fino al 1800, la città di Bolzano rimase più o meno in quella grandezza lì. Fu poi per Atone, questa è l'architettura che vi fa venire in mente il gotico, ok? Questa è l'architettura che fa venire in mente il gotico, e la città comunque era molto piccola, c'era la porta Hurlach, per esempio, la porta dell'ospedale quello vecchio che c'è qui in città, ed era praticamente il perimetro, era proprio l'ospedale, la parte interna dei portici, e dove c'è il ponte Talver era chiuso, perché comunque il ponte Talver era a quel tempo al di fuori ancora della città. La stazione ovviamente non c'era, perché non c'era. Poi nell'Ottocento venne costruita la stazione di Bolzano, e lì la città ebbe già un po' di espansione ancora prima di Peratone, perché la stazione portava merci, cittadini da nord a sud, quindi dall'impero ma anche dalle zone italiane. E cosa importante, vennero costruiti tram. Perché vennero costruiti tram? Perché Gries non era Bolzano. Gries era un paesino autonomo che aveva il suo municipio e tutto, non aveva nessuna voglia di far parte di Bolzano, e quindi per arrivare a Gries prendevi il tram. Stessa cosa per arrivare a quello che oggi noi chiamiamo Laives, ma anche in quella zona lì venne elettrificata e venne attivata una linea. E poi la terza linea del tram finiva in via Fago. Perché? Perché in via Fago c'erano tutti gli alberghi, i sanatori e le varie, sapete, chi aveva problemi, tubercolosi eccetera, veniva in provincia, a Bolzano a quel tempo a curare, credevano che facesse bene l'aria di questo posto eccetera. Quindi abbiamo questa. Un'altra linea del tram che avevo scoperto sarebbe dovuta essere cioè avrebbe dovuto arrivare da Piazza Gries fino ai bagni di Zolfo, ma non fu mai costruita, perché nella zona dei bagni di Zolfo, non è che si chiama così per caso, erano stati fatti degli studi proprio al tempo del Kaiser e pareva che lì ci fossero effettivamente delle grotte che avessero delle particolari, non proprio, non solo lo zolfo, ma ci fossero anche altri minerali, l'acqua in un certo modo, e quindi avrebbero voluto costruire anche lì l'albergo con le terme, con le case che chiamano terme, solo che poi il progetto fu abortito dallo stesso Peratoner, che non voleva che la città si espandesse troppo nella parte, diciamo, più paludosa, perché sapete che la zona dell'ospedale di Bolzano, anche quando hanno costruito l'ospedale nuovo, e fu abbastanza complesso, esatto, perché aveva un terreno complicato. Quindi già Peratoner aveva capito che era meglio non espandersi verso quella zona lì. Poi abbiamo il Duomo. Allora, il Duomo di Bolzano, che è l'edificio più antico che abbiamo della Bolzano moderna, diciamo, quindi della Bolzano che si chiama Bolzano e quindi della Bolzano che parte da circa il 1200. Prima del 1200 sulle cartine geografiche si trovava ancora la dizione latina, quindi Pons Drusi, ponte di Druso, e io avevo letto un articolo su Focus che parlava di Drusian Borg, perché in tedesco avevano preso Drusian, ponte Druso, avevano preso solo Druso e poi avevano aggiunto Borgo, però questo Drusian Borg probabilmente era solo parlato, e la parola Bolzano esattamente non si sa bene da dove derivi, ci sono delle teorie. Allora, vabbè, vi dico anche Gries probabilmente deriva da Ghiaia, perché in quella zona c'era parecchio terreno sedimentoso e quindi probabilmente deriva da quella parola lì, Ghiaiccio. Invece Bolzano forse deriva o da Batium, perché in latino Batium non vuol dire niente, vuol dire semplicemente è un cognome che questo signore, che probabilmente aveva o combattuto, quindi era un ex centurione, aveva combattuto qualche guerra, gli era stata assegnata questo territorio. Sapete che i romani, dopo la leva che durava 20 anni, dicevano: sei sopravvissuto, ti regalo un pezzo di terra, te lo coltivi e amici. Ecco, questo Batium pare che avesse questo appezzamento qui nella conca di Bolzano, e quindi da Batium poi si è trasformato in Bozen, quindi con la T prima della Z, e poi Bolzano in italiano. C'era anche questa teoria. E quindi poi in latino Bauzanum, eccetera, eccetera. Però sul nome, sull'etimologia vera e propria, sono stati fatti degli studi, ma non c'è una certezza, quindi questa potrebbe essere una favola, e potrebbe essere Bozen derivare proprio da una moneta, che si chiamava così, e quindi questa era una città che aveva il cambio delle monete, perché c'erano tanti mercanti che venivano da più parti del mondo, d'Europa, e quindi cambiavano le monete, e una di queste monete pare si chiamasse Bozen, e le persone che lavoravano con queste monete, i bolzanini, sarebbero, però, perché tedesco e italiano c'è la stessa etimologia, Bozen e Bolzano sono fondamentalmente hanno la stessa radice, quindi sì, gli italiani che i tedeschi utilizzavano la stessa etimologia, anche i ladini in realtà, perché Bulzan non è che sia proprio distante, invece della Z utilizzavano la S, perché il ladino ha una storia diversa rispetto al tedesco ad esempio, o all'italiano che si era poi fuso, eccetera. Quindi su questo sarebbe interessante che prima o poi qualcuno ci facesse uno studio, perché attualmente nessuno sa con esattezza. È interessante poi, perché questa chiesa è importante? Perché questa chiesa qua per anni siamo stati convinti che fosse effettivamente il primo agglomerato di case intorno alla chiesa fosse stato intorno al Duomo di Bolzano, e invece ci eravamo tutti sbagliati. Si sono accorti di questo errore quando nel 1985 hanno scavato per fare il parcheggio sotterraneo in Piazza Walter e trovarono un villaggio dell'età del ferro. Quindi si presume che se ci fosse stato un villaggio abbastanza grande, non era vero che la conca di Bolzano fosse tutta una palude come ci avevano raccontato. Ma forse potrò usarlo? Beh, tanto non dovrebbe esplodere. Faccio una prova. Io ci provo. Allora, vediamo un po'. Bolzano scomparsa. Sì. Scusatemi per questo intoppino, ma... Allora, il sito di Bolzano scomparsa, vabbè, potete andare... quello che Frangipane ha fatto di intelligente, secondo me, è dividerlo per... Vabbè, c'è la sua biografia, giustamente, perché lui... È ovvio che voi... È corretto anche nel mio sito, ho messo chi sono, poi anzi, poi vi apro anche il mio sito che ha un nome... E io ho dovuto mettere un nome un po' più inglese, perché sennò ai tempi di oggi... Se metto normale non va bene, ma poi vi faccio vedere anche il mio. Comunque, ecco, sono le gallerie fotografiche che... Ah, ok, grazie mille. Sono le gallerie fotografiche quelle interessanti, perché lui le ha suddivise, ha fatto un lavoro di archivistica, e è andato a recuperare queste foto e poi le ha suddivise per gli anni. E queste foto che ha trovato, da quello che sapevo, non sono però foto di collezioni private, quindi per quello che era inutile creare un file. Io farò una conferenza, solo che non ero ancora pronto per farla, con del materiale inedito sulla provincia di Bolzano, e quindi oggi sarebbe stato un po' sciocco farvi vedere della roba a metà. Quella però la farò in primavera, sono d'accordo già con la Valeria, del materiale inedito, con delle foto inedite di per esempio anche il plastico che lui ha trovato, ma io ne ho una diversa, sul plastico di come avrebbe dovuto essere Piazza della Vittoria. Quindi ci sono delle cose interessanti. Ecco, per esempio, apriamo questo periodo qui dal 1900-1904. Questa è la Bolzano di cui vi parlavo prima, di Peratoner, in gergo, tra virgolette, tecnico, questa è la Bolzano della Belle Époque, cioè quell'epoca bella, quell'epoca dove il mondo occidentale ovviamente andava verso la... ecco, questo è il Kursaus, una cosa, Bolzano scomparsa, e delle volte ho notato, non so perché, e non è questo il caso, però ieri mi era capitata una foto di Merano con un errore dicendo che era Bolzano, infatti gliel'ho segnalata, probabilmente alcune collezioni che sono state donate alle biblioteche, perché per esempio anche un mio zio aveva donato della roba a una biblioteca, dentro aveva delle foto miste, le molte volte sono state archiviate ma non sono state smistate, quindi potrebbe anche essere che queste sono le Marcelline, cioè oggi è le Marcelline, una volta era il Kurhaus. Come vedete, questo stile che potete chiamare anche Liberty, quello stile piastrellato, e in storia bisogna ragionare così, perché sennò nessuno ricorda mai nulla, a meno che non sia un matto che si ricorda tutto. E ricordatevi il Titanic, quando voi pensate allo stile Liberty voi ricordatevi il Titanic e la Belle Époque. Se vi chiedono quando è finita la Belle Époque, quando il Titanic è affondato, così non ci sono problemi, perché il Titanic, poi dipende dal punto di vista, è questa, no? Sapete la storia? La sfida dell'uomo all'impossibile, e poi si sono arenati contro un iceberg e hanno capito che la nave inaffondabile non era proprio inaffondabile, però hanno avuto un po' di sfortuna. Sarebbe anche lì da fare una bella... Allora, andiamo avanti, se le apre... Ok, questo è il Ponte Talvera, no? Ponte Talvera che è stato ricostruito tutto nel 1900, prima era aveva tutta la parte in legno, è stato ricostruito in ferro, e come vedete c'è il vecchio casello del Dazio, perché come vi ho detto prima la città di Bolzano finiva qua, ok? E qui come vedete c'è il binario del tram. Quindi il tram che andava verso Gries si diramava, perché qualcuno poi potrà vedere delle foto dove adesso c'è il monumento, ma anche prima del monumento, vedete degli scambi, perché un binario andava dove adesso c'è la Banca d'Italia, entrava, avete presente dove c'è Autodima? Prima di Autodima si entra, e lì entrava il binario e i tram andavano alla rimessa. Quindi c'è una foto che trovate da tutte le parti dove vi fanno vedere un tram che va di là, tanti mi hanno chiesto ma dove va, c'era una linea che andava, non andava da nessuna parte perché lì c'era campagna, quindi... C'era anche la stazione dell'autocorriere, cioè il tram, c'era esatto. La Sasa. Esatto, e poi hanno costruito la Banca d'Italia, chiaro, ok. Ecco, questo era il mercato di Piazza delle Erbe, che non era chic come pensiamo, ma era proprio un mercato contadino. Bolzano era una città fortemente rurale e durante l'impero austro-ungarico si puntava tantissimo a questa ruralità, il maso chiuso, che però, attenzione, il fascismo non toccò. Cioè, io ho trovato un libro, una rivista del periodo fascista che trovate in questa biblioteca online, andate sotto pubblicazioni, scrivete, trovate Atesia, ok, c'è scritto lì sopra, ci sono queste riviste, e in questa rivista si spiegava che cosa fosse il maso chiuso e perché fosse bello mantenerlo. Era del 38 l'articolo, quindi nel 38 il podestà di quel paese, che non ricordo quale fosse, comunque era un paesino, diceva che fosse intelligente tenere il maso chiuso perché lui riusciva meglio a gestire le persone del luogo, perché lui parlava con il capo famiglia e si era a posto. Lui probabilmente era di origine tedesca, perché nei primi articoli di questa persona avevo trovato un cognome tedesco, e poi era il suo stesso cognome tradotto, quindi è uno di quei famosi tedeschi a cui avevano tradotto il cognome, e lui pur di mantenersi il posto se l'era fatto tradurre, perché non è che siamo tutti eroi, e non critico, ed era uno di quelli che poi era rimasto qui dopo le opzioni, ovviamente, perché essendo però in quel paese, da quello che ho visto poi nelle cronache di Frangipane, pareva che questa situazione di compromesso funzionasse, perché comunque lui probabilmente parlava in tedesco con i propri cittadini quando c'era da spiegare le cose, e insomma la comunità montana fosse risparmiata da tutte le questioni fasciste, eccetera. L'unica cosa che gli chiedevano era quella di andare una volta all'anno a Bolzano, mettersi in costume storico e farsi fare le foto per far vedere che Mussolini era amico della... Se voi vedete, trovate un mucchio di foto di manifestazioni con i piumaggi anche che ricordano di Schützen in Piazza Walter, ogni Sarentino, ovviamente il cartello era scritto in italiano, solo Sarentino, Funes, ma c'erano tutte le bande del paese e tutti in maschera quel giorno lì, perché facevano la fotografia e dicevano: vedete, il regime non ha toccato. Effettivamente, da un punto di vista prettamente capillare, uno degli errori del fascismo qui, degli errori strategici loro, fu quello di lasciare molto, e di fatto le catacombe in Schulen riportarono, no, quella filosofia sul tirolese che sembrava fosse persa, e l'Ovra, la polizia segreta fascista, conosceva nomi, cognomi, aule, avrebbero potuto tranquillamente arrestare, non l'hanno mai fatto per non inimicarsi troppo la popolazione che stava andando verso il partito nazista. Perché qua c'era un altro problema, c'erano i nazisti che facevano una propaganda fortissima, clandestina, e addirittura il canonico Gamper, che all'inizio credeva che i nazisti fossero aiutassero la cosa su tirolese, lui aveva partecipato ai primi incontri, poi si dissociò, infatti poi questi se la legarrarono al dito, perché poi il canonico Gamper fu denunciato e mandato a morire in Germania. Quindi perfino una persona come il canonico Gamper all'inizio scambiò quel movimento per una cosa positiva, invece poi sappiamo tutti che cosa fecero i nazisti qua, cioè un apparato spionistico fortissimo che fece rastrellare tutti gli ebrei dopo l'8 di settembre, quindi fu una cosa molto molto pesante. Esatto, ecco, questo è interessante, perché il ponte Loreto sull'Isarco, qui vabbè, adesso la cappella della Madonna di Loreto bombardata nel 43-45, vedete ogni tanto le foto sono state un po' scambiate, perché questa chiaramente è una foto del post seconda guerra mondiale, cioè, o durante, se non altro, invece dovrebbe essere riferita al primo periodo. Però è interessante perché sul ponte Loreto ci passava sia il tram che a fianco ci passava il treno, era un po' diverso rispetto adesso, ok? Era molto interessante, perché quello è uno dei primi ponti costruiti in un certo modo a Bolzano. Anche Bolzano ha tanti ponti per essere così piccola. Ecco, questa è una delle lavandere. Ecco, qui per esempio in via della Roggia, lungo una roggia, e in questa via qui c'erano appunto le lavandaie. E per farvi capire che Bolzano era totalmente diversa da come era anche negli anni 30. Se voi prendete le foto degli anni 30, era una città molto più, tra virgolette, signorile e con balli. Negli anni prima del Novecento era una città molto rurale, non per niente, dove adesso c'è il teatro nuovo, c'era il foro Boario, quindi si andavano a vendere le mucche, poi lì c'è stato un cimitero e poi ci hanno costruito il nuovo teatro. Però per farvi capire, allora adesso andiamo un po' avanti, magari andiamo a vedere un'altra galleria per farvi vedere proprio la differenza col, ecco, 35-39, che è il periodo storico più di espansione finale, perché poi c'è stata la guerra. E questo era ecco, il fascismo recuperò anche molti affreschi, però a Bolzano fece questo lavoro di recupero che Peratone aveva non fatto apposta, ma non perché ce l'aveva con gli affreschi, perché lui vedeva la città moderna, a lui non gliene fregava niente del periodo vescovile, lui voleva una città moderna, avrebbe costruito anche i grattacieli, penso, perché la voleva moderna. Vedete gli odierni Corso Libertà e Piazza Mazzini, che sono le due strade che poi avrebbero dovuto collegare il foro della Vittoria, che poi l'hanno anche fatto, quindi questi stradoni grandi, il fascismo, perché? Per fare le parate. Fare le parate, come vedete, anche l'architettura, adesso appena passiamo all'altra foto, questo è l'ospedale vecchio del 1859, è quello che dicevo prima alla signora in intervista, e l'architettura del 1859, cioè della Bolzano di Altman, che fu un architetto che costruì la parte anche dove siamo adesso, questa parte qui, è un'architettura molto squadrata che ricorda un pochino l'architettura anche dell'università moderna. Cioè, è ovvio, dovete fare, se mi sento un architetto mi spara, però dovete fare il distinguo. È chiaro che nel 1859 non poteva essere con la colata di cemento armato, però era un cubo, era squadrata, era un parallelepipedo, come le nuove università, per esempio di Bressanone, anche se è un po' sopraelevata, e la stessa università che hanno fatto qua a Bolzano. Non ha a che vedere in realtà con l'architettura che ha intorno, avrebbero dovuto farla semmai più vicina al vecchio ospedale, ma perché il vecchio ospedale aveva le finestre fatte in un certo modo, se avessero solo ripreso le finestre avrebbero fatto un lavoro probabilmente migliore, anche se potrebbe essere che questo lavoro fra 50 anni lo apprezziamo, perché diciamo, ma guarda quanti stili di architettura che abbiamo a Bolzano. Il Museum, per esempio, che all'inizio personalmente l'avevo un po' criticato, ho detto ma hanno copiato Parigi in mezzo a Bolzano, perché Parigi è uguale, in mezzo a Bolzano c'è un'architettura liberty, appunto, e poi mi ritrovo il palazzo moderno. Invece adesso, sinceramente, in quel complesso è un museo d'arte moderna, è anche bello, cioè quando è sera ci fanno tanti eventi, insomma è diventato un luogo d'aggregazione, quindi alcune cose poi vengono riscoperte col tempo, perché se fosse solo museo sarebbero chiuso da tempo, però siccome ci fanno queste feste, diventa tutto un altro tipo di questione, chiaro che... Ecco, questo è importante, manovre militari in Val di Non, che poi in realtà furono anche verso la Mendola, e scesero poi coi carri armati dalla Mendola a Bolzano. Mussolini in quell'occasione fu a Bolzano, fece un consiglio dei ministri straordinario nella città di Bolzano, dove adesso c'è la scuola Dante Alighieri, e decise la campagna d'Etiopia. Sapete perché? Perché nell'incontro che aveva avuto la settimana prima con il ministro francese, gli aveva fatto capire che avrebbe comunque venduto armi all'Italia senza problemi e non avrebbe boicottato, l'Inghilterra stessa cosa. Chiaramente l'Inghilterra e la Francia avevano tutto l'interesse che l'Italia andasse in Etiopia, perché volevano che si allontanasse dall'asse con la Germania. Poi cosa successe però? Che una volta che l'Italia è andata in Etiopia, ha fatto quello che ha fatto, l'Inghilterra ufficialmente disse che era tutto sbagliato, ma ovviamente era credibile fino a un certo punto, perché avevano tutte le colonie ancora gli inglesi, e quello che venne imputato agli italiani da parte dei francesi non fu la guerra, i gas. La Wall, il primo ministro francese, disse a Badoglio, perché erano amici dalla prima guerra mondiale, disse: ma caro Badoglio, ma avete fatto veramente una cavolata in Etiopia, perché gli italiani si erano inventati che gli etiopi li avessero attaccati per primi, il famoso incidente di Wall Wall. Praticamente si erano un po' quello che hanno fatto i tedeschi nel 39, sapete, i tedeschi in Polonia, la stessa cosa, erano agenti dell'SS che avevano vestiti da soldati polacchi, e la stessa cosa era stata fatta dagli italiani, solo che gli italiani avevano usato in quell'occasione le persone del luogo che non si erano neanche ammazzati, erano degli eritrei, quindi praticamente avevano le uniformi italiane, ma erano eritrei in zona etiope, hanno fatto una confusione enorme, e la Wall disse: questi giochini li dovete imparare a fare, si vede che non siete ancora dei bravi colonialisti. Cioè, prende pure la presa in giro. È famosa questa frase che venne detta a Badoglio, che si mise a ridere e dire: ma sì, tanto la guerra dovevamo farla scoppiare in qualche modo, o qualcos'altro, dovevamo farla scoppiare. Quindi queste grandi manovre però diedero il via alla conquista dell'Etiopia. E in questa foto, da quello che venne ricostruito, proprio Mussolini sta dicendo al re quello che il re sospettava ma non sapeva ufficialmente. Gli sta dicendo: guarda che io andrò in Etiopia. Il re non era molto convinto all'inizio di fare quel passo, perché aveva paura di mettersi contro la corona inglese, ma perché sapete, tra aristocratici pestarsi i piedi fa sempre fatica. Invece Mussolini lo rassicurò e gli disse: ti faremo imperatore d'Etiopia. E come sapete Mussolini rifiutò tutti i titoli nobiliari, quindi la popolazione italiana in quel caso là apprezzò Mussolini, no? Dicendo: guarda il re che non fa niente, va in Etiopia e diventa, perché imperatore d'Etiopia, imperatore d'Albania, comunque i titoli se li è presi era l'Italia. E lì pare che in queste grandi manovre rassicurò, gli disse: guarda che la facciata rimane uguale, io mi prendo la vittoria politica, tu prenditi pure i titoli nobiliari, io non li voglio. Poi provò a farlo diventare maresciallo d'Italia, ma Mussolini si rifiutò. Divenne maresciallo d'Italia Badoglio, e poi l'altro generale, Graziani, venne anche nominato maresciallo d'Italia per motivi di invidia. Quindi allo Stato Maggiore c'erano i Badogliani e i Graziani. Graziani era considerato un esperto di guerra coloniale, e in realtà era abbastanza... lo chiamavano il leone, ma in realtà lui se ne stava ben nelle retrovie, sotto una tomba romana nella seconda guerra mondiale, ben lontano dalle zone di combattimento. Infatti dovette arrivare Rommel a spiegargli un attimo come si faceva la guerra d'attacco, e i nostri militari, addirittura anche i caporali, preferivano prendere ordini da Rommel direttamente che dai loro, perché Rommel era in prima fila addirittura senza il metto, con solamente il foulard, e comandava, diceva, dava, si spostava, quindi lui rischiava la vita in prima persona. Chiaramente un militare che si è fatto 2 anni di trincee, di sabbia, di dissenteria, eccetera, vede il generale che è sporco, che arriva, batte su... Rommel era anche uno che ti batteva sulla spalla, ti diceva: a domani mattina attacchiamo alle 5 e io credo in voi. Immaginate i militari italiani che erano abituati a vedere i nostri graduati che arrivavano puliti, docciati, profumati, ascoltavano un attimo la truppa, mangiavano il rancio insieme a, e poi tornavano nella tomba romana. C'è un po' di differenza. Infatti l'offensiva, Rommel disse in più occasioni che il soldato italiano, rispetto al soldato italiano ma non rispetto al graduato italiano, lui non considerava i generali italiani perché li considerava dei vigliacchi. Questo è interessante perché questi sono dei militari sovietici che assistettero alle grandi manovre dell'esercito italiano a Bolzano. Perché sovietici? Perché Mussolini fu il primo in tutto il mondo a riconoscere il governo dell'URSS. Cioè i fascisti furono il primo governo che riconobbero, i primi, perché ovviamente l'Inghilterra, sapete... Eh sì, l'Inghilterra era contro proprio al comunismo, e soprattutto non perdonò mai ai russi di aver ucciso lo zar, perché era pronta una nave inglese nel Mar Nero per portare lo zar in Inghilterra. E invece, se vi ricordate, Lenin non voleva, perché Lenin era stato aiutato dagli inglesi e dalla massoneria inglese che gli aveva fornito le armi, e gli avevano detto: tu fai tutto quello che vuoi, fai i regimi, ma non devi fare fuori i regnanti. E invece a Lenin scappò via una parte del suo esercito ancora molto raffazzonato, sprovò il solito fenomeno, che decise di far fuori Romanov in quel modo lì. Pensate che Putin, una delle sue prime azioni fu quella di andare a cercare i corpi dei Romanov che erano stati bruciati e sparpagliati, e mandò, cioè, una lettera ufficiale di Lavrov che scrisse all'Inghilterra, perché erano cugini dei regnanti inglesi, scrisse una lettera di scuse dopo svariati anni, dicendo: guardate, quella volta lì abbiamo sbagliato. Poi da lì, se vi ricordate, Anastasia sembra che sia scappata, tutte quelle fantasie, però in realtà io volevo fare una conferenza su Anastasia perché a molte mie alunne piaceva questa storia. In realtà quella storia lì, ve la dico in un minuto, sapete perché è nata? Perché c'era una signora non tanto sana di mente in un sanatorio tedesco che sosteneva di essere lei la principessa Anastasia. Ci hanno fatto anche un film e ci hanno fatto pure l'ultima serie. Quella signora le hanno dato della pazza per anni e poi lei, in punto di morte, una persona pare che l'abbia riconosciuta per un motivo, anche se la precettrice di Anastasia disse che aveva un difetto, però un'altra persona giurò che fosse quella, allora da lì si è creata la leggenda. Comunque i russi erano presenti qui perché l'URSS appoggiò anche l'Italia in Etiopia, in realtà sotto banco disse andatevi pure in Etiopia, perché ancora doveva scoppiare la guerra in Spagna. Quindi chiaramente a noi queste cose fanno un po' strano, ma in realtà adesso ancora due foto e poi vi lascio andare, vediamo se questa si apre, ecco. E c'erano ovviamente anche i nazisti che assistettero alle grandi manovre e iniziarono a capire che forse la guerra si poteva vincere con i carri armati, e però ingrandirono la loro potenza perché i carri armati italiani erano molto piccoli e loro si inventarono dei carri armati un po' più grandi. Presero spunto però dalle manovre anche delle forze italiane, ci furono dei diari. Ecco qua il Duce a Bolzano nella stessa giornata, quindi anche qua vi ingannano molto queste foto. Perché? Perché queste sono tutte scattate lo stesso giorno. Cioè Mussolini sembra che sia stato a Bolzano una settimana, era la nuova potenza dei mezzi moderni, cioè lui sfruttò moltissimo televisione, parliamo di cinegiornali ovviamente, documentari, eccetera eccetera. Quindi in questo caso qua ci fu poi tutta la parata, e Mussolini si presentò a Bolzano, stava andando in questa occasione a fare il famoso, questo è il segretario federale quindi della provincia di Bolzano, e il segretario federale avrebbe dovuto stare nella casa del fascio. La casa del fascio è il tribunale, è l'odierno ufficio finanziario. Anche qui non è il problema, io ho parlato una volta con una persona che mi ha voluto spiegare la frase della Arendt, su cui bisognerebbe fare una conferenza, perché la Arendt, sapete che aveva il suo amore, era un nazista conclamato, e lei ha cercato in tutti i modi di farlo redimere, ma poi se n'è scappata via. Ma a parte questo, quasi concluso, la Arendt in quel caso lì a questa persona ha spiegato che la cosa più importante non l'hanno scritta in quelle targhe, cioè che la casa del fascio, che era di fronte al tribunale e vicino alla chiesa Cristo Re, che è stata costruita con i soldi anche dati dal regime, era per far capire che casa del fascio è il potere politico che controlla il potere giudiziario, che è il tribunale, e che controlla il potere. E non gli avevano fatto il campanile alla chiesa. Quando è che l'hanno costruito il campanile? Dopo la guerra. Perché? Perché il campanile Mussolini non lo poteva vedere, non l'avrebbe costruito. Gli ha costruito la chiesa, gli ha fatto il convento, ma gli ha detto: qua comando io, e il campanile voi non lo fate. Quindi il campanile non ce l'aveva la Cristo Re, l'hanno costruito dopo la guerra e anche a parte. Quindi la chiesa Cristo Re e il tribunale erano due monumenti, due edifici inginocchiati alla casa del fascio. In realtà a livello filosofico del fascismo, chi è veramente fascista non si esalta andando al tribunale e non si esalta per il Mussolini a cavallo, ma si esalta perché dice: guarda questi gonzi che hanno lasciato la casa del fascio col Mussolini a cavallo di fronte al tribunale e vicino alla chiesa. Ovviamente tutto quanto fa una L, la L di Littorio, come il Lido che dall'alto fa la L di Littorio, come l'Eura che sono due L. È tutto pieno di simboli. Sapete perché ci sono tutti questi simboli? Perché Mussolini era un partito di massoneria, ma la massoneria non l'ha mai ufficialmente mai fatto entrare, lui poi è diventato antimassone, ma i simboli della sua politica li ha infilati come fanno i massoni quando infilano, si dice, i loro simboli nel dollaro piuttosto che da altre parti. Queste sono fantasie, ma forse fantasie, forse no. Ecco, io devo chiudere perché sennò mi buttano fuori, e vi rinvito nella primavera, e forse anche in un incontro, devo parlare con Valeria prima di Natale, magari non il giorno in cui apro il mercatino, perché una volta mi era capitato di fare lo stesso giorno. Vi rinvito perché farò una conferenza tutta dedicata a Dumini e Matteozzi. Dumini è il famoso assassino probabile di Matteotti, e io percorrerò la storia della sua vita che pare un film. E lui morì anche in circostanze, cambiando una lampadina si disse, ma in realtà minacciò Mussolini, andò negli Stati Uniti, insomma è un personaggio da conoscere. E in quell'occasione conoscerete anche Apelius, che è il famoso cronista che disse Dio stramaledica gli inglesi, che è un personaggio assurdo che andrebbe studiato un po' di più, perché girò a mezzo mondo. Noi lo conosciamo per quella frase, ma poi non è più stato approfondito. Quindi farò una conferenza con questi personaggi un po' minori del fascismo. Io vi ringrazio, spero di non avervi annoiato. Scusate per le foto, ma qui non è stata colpa mia. Questo è il mio sito. Ah, qui ci sono gli articoli per chi li vuole, quelli di storia. Questo qua, ecco, questo qua, prego. Posso chiedere il sito? Ah, il sito. Sì, il sito lo trovi qua, sì. Grazie. Sì, sul sito io li devo ancora tutti caricare, quindi dovete avere un link. Aspetta, troviamo anche qua. Ecco. Il sito è sopra, sì. Ok, grazie. E per l'email? Allora, l'email se vuoi te la scrivo. Sì. Intanto. Ce n'è. Sono girata. Io l'email. Qualcuno che ha Druso, per favore? Sì, esatto. Marco Chiocciolina. Ovvio io. Quello di Druso non mi ha. Perché non c'è nel sito la sua mail? Sì, c'è. No, c'è. Grazie mille. Figuratevi. Voi potete mandarmi quella mail? Forse, vuoi te la scrivo? Ma tanto la mail è facilissima, perché è qua, guarda. Marco Chiocciolina. Ecco. Sì, sì. Qual era il quel castello? Posso prendere il testo del libro? Sì, sì, può prenderlo, se ci manterrebbe. Lo scrivo te. Mareccia. Ah, ok. E invece qual era il terzo nome di quei storici? Allora, Spinoza, Bertacco? Bertoldi. Posso avere un altro foglio? Due foglio. Mi sa che sono finiti, ma se lei mi manda una mail, io glieli posso mandare. O se volete, io il materiale lo posso lasciare anche alla Valeria. Sì, lascerò qui del materiale cartaceo la prossima settimana. Voi trovate magari oltre. Preparo dei piccoli blog e trovate anche altri articoli, e anche questi col sito e la mail, va bene? Okay. Ve li lascio qua. Intorno al 10-11 di ottobre li trovate. Grazie. Va bene? Vi preparo, vi metto dentro anche più articoli, metterò una decina con questi. Con questi. Vengo qui, certo. Qua. Sì, sì. Sì, in 10 minuti si li trova qua. Arrivederci, grazie di essere. Il sito ce lo trova sul foglio. Lì sopra. Quello d'uso, purtroppo io ne avevo. Sì, sono scomparsi, non ce l'ho anche io. Il sito è questo. Se lei ha un altro foglio. No, questo è il mio. Voglio anch'io. È quello? Sì. Il sito è qua, sì. L'ho messo su tutti. Non pensavo fosse così tanti, allora il sito è qua dietro, guarda. No, sai che forse qua non c'è? No, ve lo scrivo io. Ah, scusi. www. Ecco qua. Ok. Ma perché qua non c'è, vero? No. Che caldo qua. Ah, è quello. Comunque complimenti. Grazie. Bello avere un professor di storia. Sì, io insegno matematica. Senza lasciar date, lasciando date tutto. Sarà, vero? Che insegno matematica e allora. Ah, allora fa già i numeri. Vuole il sito? Fa molto piacere che ha accettato Aquileia. Buonasera. Arrivederci. Perché io vengo da quelle parti lì. Ah. Un po'. Quarta città dell'impero romano. Eh sì, molti dimenticano, ma. Grazie. Senta, poi io volevo chiedervi una cosa particolare. Sì. Una curiosamente, lo diceva un attore, questo è il dottor Carlo Trentino, lo conosco perché a Bozzano lo conosco da un po' di tempo, però volevo chiedere una cosa, ma è vero che Mussolini aveva una moglie di Grecia e un figlio con questa donna? Sì, Albino, ora mio che poi l'ha lasciato, lui è morito, ammazzato, e lei gli ha ciucciato i soldi per fare il giornale. E lei l'ha confinata dentro il manicomio. Perché lei poi era innamoratissima di lui, gli dava problemi e lui l'ha voluta. L'ha levata di mezzo. No, scusa. Mussolini era molto cattivo quando. Sì, sì, no, ma lo sapevo. Allora, un libro da 36, sì. Circa, credo, Gli Invisibili, da un altro anno e mezzo. Sì. Poi parla di partigiani rossi, guerrieri, che si fregò la roba di Ciaccia. Ecco lì, in quel caso, Mussolini considerava tutte le città da ultimo urinatoio di carne. La cosa terribile era proprio. Poi fece, vabbè, complimenti. Grazie. Allora, aspetto alla prossima. Alla sua prossima. Sì, certo. La signora ci avviseranno. Sì, no, vi avvisano tanto. Adesso io chiederò a loro le informazioni. Sì, io lascerò qui alla Valeria tutto il materiale, grazie. E poi lei, dopo il 10 di ottobre, trovate tutto. Sì, sì, va bene. Grazie mille. Questo libro ce l'ha la biblioteca? Probabilmente sì, se no glielo faccio comprare. Di solito loro lo comprano appena. Sì,